Noi serviamo 13 capoluoghi di provincia e siamo presenti in 300 comuni sul territorio. Prevalentemente siamo nel nord Italia, dove sono presenti i punti fisici dei nostri negozi. Senta Varesi, ci faccio capire quante consegne riuscite a fare in un'ora, ma anche logisticamente come avviene la ricezione dell'ordine da parte vostra, da parte del vostro sito internet e come poi i vostri furgoni riescono a portare la spesa nelle case dei vostri clienti. Diciamo che in base al CAP di appartenenza dell'indirizzo della persona, le spese vengono smistate nei vari store. Una volta arrivati nei vari store, vengono preparate e ottimizzate da un software che consente di migliorare le percorrenze e quindi ridurre i tempi di tragitto. Noi riusciamo a fare dalle 4 alle 6 consegne per fascia oraria, in una giornata ne facciamo circa 1600 e abbiamo un fatturato che è in forte crescita, supera il 20% e raggiungiamo una quota di 45 milioni di euro. C'è chi dice, c'è chi sostiene che la spesa online non sia ancora decollata. Voi non siete di questo parere? No, assolutamente, anzi, i dati ci smentiscono quanto abbiamo detto prima, proprio perché sta diventando sempre di più un modo di fare la spesa. Se prima era un'opportunità per pochi elite, adesso sta diventando uno strumento per essenzialmente le donne nell'ambito della famiglia, dove entrambi gli adulti lavorano e hanno dei figli piccoli, quindi il tempo è sempre minore e dedicano questo spazio ad altre attività a tempo libero, i figli, la famiglia e quant'altro.